Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che da quasi 12 anni racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, i cambiamenti degli stili di vita, la critica al sistema esistente, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 728 e parleremo di cani e maiali da mangiare, di circhi, di libri che hanno fatto epoca e di altre notizie di attualità. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni. Tra i maltrattamenti esotici di animali, il consumo di carne di cane è fra quelli che più urtano la sensibilità di chi vive in Occidente e ne ha assorbito la cultura. I cani da noi sono animali da compagnia, parte delle nostre famiglie, quasi un ibrido animale-umano per la considerazione morale che abbiamo di loro. In verità vi sono eccezioni a questo legame, basti pensare alle corse, popolarissime in Gran Bretagna e altri paesi, o agli allevamenti di cani di razza, una vistosa forma di sfruttamento, ma spesso percepita come un'ulteriore prova della preferenza che accordiamo al cosiddetto migliore amico dell'uomo. Il consumo di carne di cane, diffuso in certe zone dell'Asia, è al nostro sguardo un'inconcepibile barbarie, un segno di arretratezza culturale e di una speciale forma di crudeltà. Dunque, la notizia che arriva dalla Corea del Sud è motivo di generale sollievo. Il Parlamento di Seul ha approvato una legge che introduce un cambiamento storico nelle tradizioni locali. Entro 3 anni sarà vietato consumare carne di cane e chi commetterà infrazioni, allevando, abbattendo, vendendo cani, rischierà fino a 3 anni di carcere. Non ci sarà più alcun motivo per trattarci come un paese mangiatore di cani, ha dichiarato Tai Yong-ho, deputato del partito di maggioranza che ha proposto il testo. E Jung Ah Chae, direttrice esecutiva dell'organizzazione Human Society International Korea, ha detto: «Mi si spezza il cuore pensando ai milioni di cani per i quali il cambiamento arriva troppo tardi, ma sono lieta che la Corea del Sud possa chiudere questo miserabile capitolo della nostra storia e guardare avanti verso un futuro amico dei cani». Secondo le stime degli attivisti per i diritti degli animali, nel paese la macellazione di cani a scopo alimentare potrebbe arrivare fino a 1 milione di esemplari all'anno. È stato possibile approvare questa legge e arrivare al divieto anche perché le abitudini alimentari negli ultimi anni sono cambiate. Il cane, da animale mangiabile, è divenuto sempre più animale da compagnia, soprattutto fra i giovani. È probabile che in questa progressiva trasformazione della fascia giovanile di popolazione abbia giocato un ruolo importante la vicinanza della Corea del Sud, sul piano economico e geopolitico, al mondo occidentale. Secondo i media coreani ha avuto un peso, nel rendere possibile il cambiamento, anche il presidente Yoon Suk-yeol, eletto nel 2022, che ha adottato diversi cani e gatti randagi platealmente, e con lui la First Lady Kim Keun-hye, a sua volta voce molto critica sul consumo di carne di cane. Già il precedente presidente Moon Jae-in, noto anche lui per il suo affetto per i cani, aveva suggerito cautamente nel 2021 di vietare il consumo di carne di cane. L'ex presidente aveva 3 cani, fra cui Tori, un bastardino meticcio adottato da un canile. Il primo cane, salvato da un destino di macellazione, a entrare con tutti gli onori nella Casa Blu, il palazzo presidenziale, un piccolo evento che ha anticipato questo provvedimento di legge. I precedenti tentativi di introdurre una norma del genere erano falliti per la ovvia quanto ferma opposizione degli allevatori, che sono circa 1.100 in tutto il paese. La legge tiene conto anche di loro e prevede un indennizzo affinché le imprese possano ritirarsi dal commercio e convertirsi in qualcos'altro. È un percorso peraltro già visto in Italia e altri paesi con il divieto di allevamento di animali da uccidere per prelevarne pelliccia. Per l'associazione Animal Liberation Wave, il voto del Parlamento di Seul deve essere un punto di partenza per la liberazione dei cani, ma anche per considerare altri standard e un futuro per altre specie animali oggi soggette a sfruttamento industriale, come mucche, maiali, polli, appunto. Yeba ozali na bana pemwa mosolo ezali lelo yolobi otika ozali na garanti kanisa zongisa bongola kebisa kanisa zongisa bongola kebisa Liberazione animale, il libro di Peter Singer uscito nel 1975, è da tutti riconosciuto come un punto di svolta. Il testo del filosofo australiano diede slancio alla visione animalista, coniando la nozione di specismo, ossia il pregiudizio che attribuisce alla specie umana una ontologica superiorità rispetto alle altre specie animali. Nel suo libro Singer metteva in discussione questo assunto e aggiungeva al suo ragionamento una panoramica sulle reali condizioni di vita degli animali nelle società industriali, fra allevamenti, sperimentazione scientifica, schiavizzazione, tutti temi all'epoca assai poco presenti nella pubblicistica e meno che meno nel pensiero filosofico. Si dice che Liberazione Animale aprì la stagione del moderno animalismo, e questo nonostante il fatto che lo stesso Singer, a ben vedere, sia ben poco animalista nel senso che intendiamo oggi, cioè come militanza sociale e politica che mette in discussione i fondamenti stessi della società presente, tutta concepita e organizzata a misura di persone umane, e semmai contro la maggioranza delle persone umane, ma sempre senza alcun riguardo per gli altri animali. Liberazione Animale sviluppava una prospettiva filosofica utilitarista e non esitava a comparare la vita animale con quella umana, riprendendo la massima di Jeremy Bentham a proposito delle infinite discussioni sull'intelligenza animale. Bentham diceva che la domanda giusta per giudicare quanto gli animali siano meritevoli di considerazione è: sono capaci di soffrire? La risposta non può che essere affermativa e tutto il resto è una conseguenza di questa constatazione. Liberazione Animale è dunque un libro importante ed è appena uscito in nuova edizione dall'editore Il Saggiatore. Un'edizione aggiornata con una prefazione dello storico e saggista israeliano Yuval Noah Harari, noto per libri come Sapiens, la nascita dell'umanità, e Homo Deus, breve storia del futuro. Vi leggiamo la parte conclusiva di questa introduzione. Lo studio scientifico degli animali ha finora giocato un pessimo ruolo in questa tragedia. La comunità scientifica ha usato la sua crescente conoscenza degli animali principalmente per manipolare le loro vite in maniera più efficiente, al servizio dell'industria dell'uomo. Eppure, le stesse conoscenze hanno dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli animali d'allevamento sono esseri senzienti, con relazioni sociali intricate e sofisticati pattern psicologici. Possono non essere intelligenti come noi, ma senza dubbio sanno cosa sono il dolore, la paura, la solitudine e l'amore. Anch'essi possono soffrire ed essere felici. È giunto il momento di prendere a cuore queste scoperte scientifiche, perché con la crescita del potere dell'uomo cresce anche la nostra capacità di infliggere dolore o apportare benefici agli altri animali. Per 4 miliardi di anni la vita sulla Terra è stata dominata dalla selezione naturale. Oggi è sempre più dominata dal disegno intelligente dell'uomo. le biotecnologie, le nanotecnologie e l'intelligenza artificiale permetteranno presto agli uomini di riplasmare gli esseri viventi, dando loro forme radicalmente nuove, ridefinendo così il significato stesso di vita. Nel progettare questo nuovo mondo, dovremmo tener conto del benessere di tutti gli esseri senzienti, non solo dell'Homo sapiens. Nuova liberazione animale solleva quindi etiche che ogni uomo dovrebbe avere a cuore. Non tutti possono essere d'accordo con le tesi di Singer, ma alla luce dell'immenso potere che l'umanità ha sulle altre specie animali, è nostro dovere discuterne con attenzione. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands I could be here. There must have paid her a nice price. She's putting on a string be love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. A proposito della reale condizione degli animali nella società presente, è utile raccontare una vicenda accaduta nei giorni scorsi in Umbria, a Spello, dove si è accesa una polemica attorno al premio messo in palio per una tombola di beneficenza, cioè un maialino vivo. Il caso è stato sollevato dalla LAV, Lega Antivivisezione, con una lettera agli organizzatori e alle autorità locali per far notare, leggiamo da questo testo, che sorprende come una motivazione nobile da un lato possa vantare come una novità dare in premio un animale vivo, messo in palio come fosse un oggetto, non pensando alle sofferenze di colui che a tutti gli effetti è un essere senziente. Uno degli organizzatori ha incassato il colpo e ha pensato di rimediare, di scusarsi, ma confermando, forse inconsapevolmente, quanto fatto notare dall'AV sull'indifferenza per le sofferenze altrui. Ci scusiamo, ha detto il presidente del Circolo Bonci, uno degli organizzatori, se la dicitura del volantino può aver disturbato la sensibilità di alcune persone. Ma nella realtà si tratta di un premio consistente in un buono acquisto di un suino del peso prestabilito, gentilmente messo a disposizione da un'azienda agricola locale, di cui il vincitore potrà disporre come riterrà più opportuno. Andrà presso l'allevamento regolarmente autorizzato e in accordo con l'azienda deciderà come gestirlo. Questa è la risposta, con una precisazione successiva, e cioè che il vincitore potrebbe anche tenere il maiale in giardino, come animale da compagnia. Alla fine, però, spinti anche dalle forti pressioni ricevute via social network, il Circolo Bonci e l'altro organizzatore, l'associazione Spello in Movimento, hanno deciso di rinunciare al maialino, mettendo in palio, hanno specificato, prodotti alimentari di pari valore, al fine, ecco la spiegazione, di non urtare la sensibilità di alcune persone, ma soprattutto di non coinvolgere associazioni e aziende in polemiche fuori luogo. Il pensiero per il maialino, quindi, è ancora assente. Caso chiuso? Non tanto se pensiamo che fra i prodotti alimentari messi in palio, assai probabilmente hanno figurato alimenti di origine animale, magari salumi, derivati dall'allevamento e dall'uccisione di altri maiali. Una beffa, quindi. E del resto, specificando che i prodotti alimentari dovevano avere lo stesso valore del maialino vivo, si confermava, senza incertezze, ciò che l'AVA criticava, la considerazione di un individuo senziente al pari di un oggetto. Allora, il caso di Spello rivela qual è la reale considerazione che gli animali hanno nella nostra società, una considerazione quasi nulla se non si è animale da compagnia. E poi il caso fa anche emergere la contraddizione e l'ipocrisia del senso comune. Sollievo generale per il divieto di consumo di carne di cane in Corea, totale indifferenza per i maiali a casa nostra, per quanto non esistano differenze significative in quanto a etologia, attitudini, capacità di gioire e di soffrire fra cani e maiali. Un piccolo episodio sul quale vale la pena fare una piccola riflessione, magari tenendo a mente l'insegnamento di Liberazione Animale. The times, they are a-changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Allora si scagliava contro la società e in modo profetico, con una cadenza quasi biblica, sembrava ammonire duramente. Fate attenzione perché i tempi stanno cambiando e i figli di oggi sono pronti a rivoltarsi contro i loro stessi padri per ribaltare, appunto, in maniera biblica, concetti e filosofie. Quella del cambiamento è una speranza che si radica anche in alcuni piccoli ma significativi segnali, come quello che ci arriva dal sito dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione, dove si parla ancora di festività e di tradizioni da superare, riferendosi al circo, agli spettacoli circensi che costituiscono il classico intrattenimento natalizio. Ecco, la LAV, la Lega Antivivisezione, ha fotografato una situazione poi in evoluzione, con una riduzione degli spettacoli che prevedono lo sfruttamento degli animali. Passiamo a leggervi il loro comunicato. Quest'anno i circhi tradizionali italiani sembra si siano divisi in due scuole di pensiero, scrive LAV. Quelli rimasti tradizionalisti, dove gli animali sono ancora sfruttati e costretti a vivere in condizioni inaccettabili per la loro natura e per le loro esigenze, e quelli che in molti casi, non rinnegando il loro passato, hanno deciso di fare un esperimento diverso, necessario da tempo, ovvero di esibirsi con uno show completamente privo di animali. Rispetto agli scorsi anni, quindi, il numero degli spettacoli con animali, soprattutto in alcune regioni italiane, risulta diminuito. Circhi storicamente noti, in alcuni casi anche legati da parentela, portano in scena un cambiamento. Ologrammi di animali da una parte, numeri da Cirque du Soleil dall'altra, ormai fanno apparire sempre più obsoleto il circo tradizionale contro il quale l'associazione LAV combatte peraltro da oltre 40 anni. Un esempio è il Circo Medrano, sono circensi dal 1864. Il Circo Medrano va in scena a Milano e a Firenze fino a metà febbraio con due spettacoli che, come dichiarato nel loro comunicato stampa, si concentrano su artisti di alto livello per cambiare completamente la forma classica dello spettacolo. In parallelo esiste poi il mondo del circo sociale contemporaneo che non ha mai sfruttato gli animali nei suoi spettacoli e che, come in altri paesi, quali la Francia, sta doppiando letteralmente, numericamente, i circhi tradizionali con animali. Le offerte sono numerose e ospitate anche presso luoghi importanti e prestigiosi. Un esempio è la Biennale di Venezia, dove 5 spettacoli gratuiti dedicati alle famiglie realizzati da compagnie di circo contemporaneo italiane e internazionali si esibiranno con acrobazie, giocolerie e musiche eseguite da clown fino a sabato 6 gennaio. Insomma, i tempi si stanno adeguando alle esigenze delle nuove generazioni, alla consapevolezza che non esistono né educazione né alcun tipo di insegnamento provenienti da circhi dove gli animali sono costretti a esercizi innaturali ed estenuanti spostamenti. come anche emerso dal sondaggio Doxa del settembre 2023. Sono numerosi gli esponenti del settore che se ne stanno rendendo conto e ciò non deve far altro che rafforzare la necessità di operare con una normativa nazionale che contrasti la condizione di sfruttamento e maltrattamento degli animali. L'associazione LAV, nel suo comunicato stampa, invoca per l'ennesima volta l'approvazione di un decreto legislativo che preveda il divieto di utilizzo di animali nei circhi. E così conclude il comunicato della LAV con la speranza fortissima di vedere finalmente le gabbie vuote. No, no, no, no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? Suppress all my strategies. You oppress, whoa, whoa, every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let here is without sin be the first to cast a stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. La triste e inquietante vicenda dei mufloni dell'isola toscana del Giglio sembrava conclusa nelle settimane scorse col macabro annuncio dell'ente parco e della regione toscana dell'avvenuta eradicazione, cioè lo sterminio, di tutti i mufloni. C'è invece una coda, come denunciano l'associazione Vita da Cani e la rete italiana dei santuari per animali liberi. Nei giorni scorsi, dicono le due organizzazioni, un gruppo di cacciatori con relativi cani si è presentato sull'isola per dare la caccia agli ultimi esemplari rimasti, evidentemente sfuggiti alla mattanza ufficiale. Il sospetto è che l'annuncio dell'eradicazione compiuta fosse un atto necessario per la prosecuzione del progetto europeo che ha portato all'uccisione degli animali, ma non corrispondesse alla realtà. Perciò si sarebbe poi resa necessaria un'ulteriore sistematica caccia agli ultimi mufloni. A dispetto di tutto, anche della verità, dice Sara D'Angelo, presidente dell'associazione Vita da Cani e coordinatrice della rete dei santuari, ente parco e regione toscana vogliono andare fino in fondo nel loro progetto di morte. Tutto questo è vergognoso e dobbiamo assolutamente fermarli, oltre alla resistenza degli attivisti che non hanno mai lasciato l'isola, nonostante le dichiarazioni dell'ente parco dell'arcipelago che al Giglio tutti i mufloni fossero stati uccisi, chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine di esprimere il loro sdegno telefonando alla Regione Toscana, all'ente parco, al Ministero dell'Ambiente. I gruppi animalisti, come ricorderete, hanno contestato il progetto di ente parco e regione motivato dalla tutela della biodiversità autoctona, sostenendo, fra le altre cose, la unicità genetica del muflone del Giglio. Thank you. Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef e autore di vari volumi, fra i quali il più recente è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, di pensare a una ricetta dedicata all'Umbria. Insomma, un piatto non violento come risposta alla triste vicenda dell'asta di beneficenza di Spello. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Con questo freddino una bella tazza di cipollata ci sta proprio bene. Quindi gustatevi questa ricetta tipica della cucina povera umbra. La cipollata in tazza. Gli ingredienti per 4 persone sono 1 kg di cipolle, 350 g di passata di pomodoro, 100 g di farina di ceci, 4 fette di pane, un cucchiaio di lievito alimentare, del basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sbucciate e affettate le cipolle e fatele scottare con poca acqua in una casseruola. Quando il liquido si sarà ritirato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine, il basilico spezzettato, sale e pepe. Coprite e cuocete a fuoco molto basso affinché le cipolle non diventino scure. Se necessario, durante la cottura aggiungete poca acqua calda. Quando le cipolle saranno molto morbide, aggiungete il pomodoro. Aggiungete 1 litro d'acqua e aggiustate di sale e pepe. Lasciate cuocere per circa un'ora. Nel frattempo tagliate il pane a cubetti che farete tostare in forno o in padella con un cucchiaio di olio. A parte, stemperate la farina di ceci con poca acqua e il lievito alimentare. A fine cottura incorporate la pastella di ceci alla cipollata. Fate cuocere ancora qualche minuto, quindi servite accompagnando con i crostini di pane. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.